piuttosto che un operaio consapevole sarei in via di guarigione. Preferirei essere un pizzicotto internazionalista piuttosto che il capo ed il giullare della via nazionale. Preferirei essere assenteista martoriato piuttosto che il sindacalista assenteista e mercenario. Preferirei affettarmi il cazzo piuttosto che dire gli interessi degli operai e della nazione sono inseparabili. Preferirei un'infelicità famelica, essere una sfera senza spazio, una luce accesa a mezzogiorno piuttosto che un muscolo gruppettaro, truppettaro. Preferirei essere libero per colpa di una lontana emarginazione. Ho respinto e inseguito come un pallone piuttosto che l'uomo compresso dalle occasioni mancate. Preferirei un'intesa assassina o una solitudine senza scampo piuttosto che fingere l'unità nella diversità su un pavimento